Quarta e ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco degli Shelter of Leech dal titolo No One Else Around. Come si chiamava questa canzone? Ah, questa era Recollect e vuole essere un monito a rimettere insieme quello che di buono si è salvato e ripartire dopo una brutta battuta d'arresto. Quali impegni attendono la vostra band per l'immediato futuro? Impegni. Ci stiamo impegnando molto per trovare impegni, nel senso di ci stiamo muovendo. È importante anche impegnarci, insomma, altrimenti. Stiamo muovendo per un'agenzia di booking, mm-hmm. I contatti ci sono, dobbiamo definire cosa e quale delle agenzie. Il video, stiamo aspettando il video, l'abbiamo finito, è pronto, deve solo uscire. E le date, ci stiamo, ne diremo dopo. Sì, no, ma ci stiamo muovendo anche lì. Dal punto di vista live. Infatti. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? Adesso vi facciamo ascoltare Fix Me, è una canzone che passa parla del tempo che passa, di come più si va avanti, più si ha paura di perdere quello che si è conquistato e questo non ti fa vivere appieno quello che di buono ti riserva il futuro. Fix Me. tempo come sempre scorre e noi siamo in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming attraverso i vari player. Un grazie agli Shelter of Leech per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album e a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco e un calendario di live. Beh, intanto grazie a te per la possibilità di essere qui. Grazie Gianlu. Grazie. Poi cominciamo con il sito www.shelterofelice.it, che sarà online il nuovo sito a breve, perché lo stiamo terminando. A cui è collegata la mail info@shelterofelice.it. Poi MySpace, Facebook, YouTube, potete trovarci, basta cercare un po', saltiamo fuori. Cata Shelter of Leech. Sì, Shelter of Leech. Come date? Allora, abbiamo la prima, il 4, nel paese nativo del getto, su Alcenago. Sì, dove pascolo di solito le pecore. In birreria. E la seconda l'11 marzo allo Stube Lorenzi a San Vito di Negrar. Poi il 23 aprile torniamo al Voodoo Club a Ferrara. Grande Voodoo Club. Sì, infatti l'accoglienza la prima volta è stata fantastica, non vediamo l'ora di tornarci. E finalmente poi torniamo a Verona il 6 maggio al Blocco Music Hall per chiudere la primavera. Vi ricordiamo che ai nostri concerti potete acquistare il nostro CD No One Else Around, che è già acquistabile su tutte le migliori piattaforme nel web, iTunes, Napster, Amazon, e ovviamente sul sito della nostra etichetta Creative Clan. E l'ultima novità, siamo su Negative, sulla rivista, anche online. A breve, anche questo, comunque ho parlato con il capo, mi ha detto che siamo sulla rivista e anche lì potete trovarci. Quindi tenete d'occhio anche il sito, oltre al sito anche Facebook e MySpace per eventuali novità riguardo a tutto quello che riguarda gli Shelter of Leech. Anche per le date, perché ce ne sono in arrivo di nuove. Brano per chiudere questa puntata. Vabbè, adesso gli Shelter of Leech vi salutano con Golden Age. Ciao. Ciao. Ciao. Gianluca e gli Shelter of Leech appunto vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti Silentia, formazione rock padovano-rodigina, che ci presenterà il suo nuovo disco dal titolo The Secret Inside. Ciao.